Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, stamattina non ci becco neanche con il microfono. Da Deborah Rosciani e ben ritrovati a tutti a Salva Danaio, la nostra consueta puntata, la nostra trasmissione dedicata al nostro denaro, alla gestione del nostro denaro, che in questo momento ci fa un po' soffrire. Ci sono tante novità da raccontare, stiamo facendo questo percorso. Abbiamo iniziato lunedì nell'ambito del pacchetto anticrisi varato venerdì scorso dal governo e, come sapete bene, ne abbiamo discusso a lungo, soprattutto a Focus Economia. Dopo una sollevazione popolare ma anche imprenditoriale enorme e un emendamento presentato ieri dal Ministero dell'Ambiente, il ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha annunciato che il Parlamento toglierà la retroattività dalla norma che introduce modifiche al bonus fiscale del 55% sugli interventi di risparmio energetico. La retroattività non ci può essere, il Parlamento la correggerà, ha detto Tremonti, ma non tutto il provvedimento preso venerdì scorso viene cancellato, perché sui tetti fissati per queste spese, per queste detrazioni fiscali per il 2009 e il 2010 non c'è nessun ripensamento. Per cui chi ha eseguito lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, della propria impresa e ha già eseguito o sta eseguendo i pagamenti avrà diritto al beneficio fiscale che gli era stato promesso fino alla fine dell'anno. Al contrario, meno speranze hanno coloro che avevano programmato lavori nei prossimi 2 anni e solo in alcuni casi potranno essere accontentati. La norma aveva sollevato un'ondata di proteste da parte di cittadini e contribuenti, ai colleghi del Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore, agli indirizzi di di tutte le trasmissioni di Radio 24, Salva Danaio, Focus Economia, La Zanzara, Viva Voce, centinaia di lettori ed ascoltatori hanno lasciato infuocati commenti alla notizia che si era chiarita bene solamente ad inizio settimana, per non parlare poi delle petizioni online e delle email di protesta che sono state inviate alle caselle del governo. Un'ondata di proteste, dicevamo, che non ha potuto ignorare ieri il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, appunto, che ha depositato la proposta di emendamento governativo della norma. Oggi faremo un po' di ordine in queste notizie, nelle notizie degli ultimi 2 giorni, non è ancora arrivato, però speriamo che arrivi, collega del Sole 24 Ore Saverio Fossati. Poi avremo con noi anche un esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore che su queste tematiche ci ha aiutato sempre in passato, lo saluto subito, il Luca De Stefani, buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi sempre anche per interpretare un po' il malumore non tanto dei contribuenti ma di tutti i consumatori, anche sentiremo la di Consum, Pieraldo Isolani, responsabile settore energia e ambiente per questa grande associazione dei consumatori. Naturalmente microfoni aperti anche a voi, 800 24 00 24 per le vostre domande, 349 per intervenire in diretta, 349 238 6666 come sempre invece il numero per i vostri messaggi. Oggi dobbiamo controllare però molto attentamente anche la borsa. Oggi è una giornata importante, abbiamo la riunione della Banca Centrale Europea, la riunione della Bank of England, siamo in attesa di conoscere l'entità, perché i tagli dei tassi di interesse sono dati per scontati, ma dovremo conoscere appunto l'entità di queste misure. Fino a ieri il mercato era abbastanza convinto di un taglio di 0,5 punto percentuale da parte della Banca Centrale Europea, ma alla luce anche del dato di Eurostat di questa mattina che conferma la recessione tecnica nell'Eurozona, è abbastanza probabile, forse probabile, che il taglio sarà più incisivo, lo 0,75% forse. Comunque lo sapremo alle 13.45 e vi daremo questa notizia in diretta nel corso del GR Extra Large. La Banca d'Inghilterra lo stesso, conosceremo la decisione all'una ora italiana, anche da qua dovremmo avere notizie di un taglio che dovrebbe essere incisivo, circa 1 punto percentuale. Poi vedremo insomma quale sarà anche la reazione del mercato. Per quello che riguarda la BCE a Francoforte vedremo anche quali saranno le dichiarazioni successive del governatore della Banca Centrale Europea, Trichet. Borsa oggi positiva in attesa di questi appuntamenti, Parigi più 2,10, Londra più 1,33%, Francoforte più 3%, S&P MIB a Piazza Affari in rialzo di 1 punto, MIBTEL più 1,02%. Abbiamo un certo movimento anche sulle valute questa mattina, l'euro sul dollaro quota 1,2601, ma in realtà a soffrire parecchio è proprio la sterlina, che si è portata al suo minimo storico nei confronti dell'euro, proprio sulla scia di questa notizia, di questa decisione in arrivo di un nuovo taglio dei tassi da parte della Banca Centrale d'Inghilterra. Per quello che riguarda i tassi interbancari, anche questi li osserviamo osserviamo, come sapete, sempre molto attentamente. Stamattina l'Euribor sulla scadenza a tre mesi è sceso al 3,67%. Stiamo confermando i livelli minimi dal gennaio del 2007, per cui si sta pian piano smorzando la tensione sui tassi interbancari. Un'altra notizia che oggi ha preoccupato molto è stata quella, e riguarda ancora l'ambito bancario e finanziario, relativa alle perdite accusate dal colosso finanziario svizzero Credit Suisse nel quarto trimestre, perdite per quasi 2 miliardi di euro. Il gruppo prevede la soppressione di 5.300 posti di lavoro, pari all'11% dell'organico, e quindi oggi un po' di tensione comunque di movimento sui titoli finanziari l'abbiamo. Un'occhiata ai migliori titoli di Piazza Affari: Prysmian più 3,94%, Tenaris più 3,82%, Finmeccanica più 3,16%, Intesa San Paolo più 3, Buzzi Unicem più 2,93, Italcementi più 2,80, Alleanza più 2,58, rialzo di 2 punti su Fiat, su Telecom all'indomani del piano industriale, Pirelli più 2, Saipem più 2%, mentre abbiamo un calo molto netto sul Banco Popolare, bocciata da Fitch meno 4,74%, Enel meno 1,87%, Unipol meno 1,87%, Terna meno 1,58%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina. Cominceremo appunto con Pieraldo Isolani e Luca De Stefani. Sentiamo però intanto la nostra scheda che riepiloga i termini della questione dopo il dietrofront di ieri da parte del Ministero dell'Economia sulla retroattività della norma che introduce modifiche al bonus fiscale del 55% sugli interventi di risparmio energetico. Sulla detrazione del 55% il governo fa marcia indietro. Lo ha fatto sapere il Ministero dell'Ambiente, che ha depositato ieri una proposta di emendamento. In discussione è la norma contenuta nel decreto anticrisi, con la quale si modifica la disciplina della detraibilità fiscale degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Questa norma aveva posto un tetto e tolto l'automatismo con effetto retroattivo al cosiddetto bonus energia del 55%, sollevando un vespaio tra chi, singoli cittadini o imprese, aveva già compiuto dei lavori, anche molto costosi, contando proprio sulla detrazione. La retroattività sarà quindi corretta, e a confermarlo è stato il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che però non si è pronunciato sugli altri aspetti della norma. Ma in cosa consiste la detrazione del 55%? Si tratta di un bonus fiscale per tutti gli interventi di risparmio energetico, dall'installazione di pannelli solari sul tetto alla modernizzazione dell'impianto di climatizzazione secondo gli standard salva ambiente. Per richiederlo, fino a pochi giorni fa, era sufficiente presentare domanda all'Enea e, scaduti i termini previsti per il silenzio assenso, attendere la restituzione del 55% della spesa sotto forma di bonus fiscale in 3 rate annuali. Il decreto anticrisi ha ribaltato tutto. Sarà l'Agenzia delle Entrate a ricevere le domande dei cittadini, che saranno accettate secondo il criterio cronologico fino ad esaurimento dei fondi. È stato infatti stabilito un limite, circa 186 milioni per il 2009, superato il quale le richieste eccedenti resteranno fuori dalla detrazione. È stato inoltre ribaltato il principio del silenzio assenso. D'ora in poi, dopo un periodo di 30 giorni, il silenzio dell'Agenzia equivarrà ad un rifiuto della richiesta presentata. Insieme a chi deciderà di annullare gli interventi di riqualificazione energetica, a pagare le conseguenze di questo provvedimento saranno anche le imprese che hanno investito nel settore del risparmio energetico e, non ultimo, l'ambiente stesso. 800240024 è il numero per i vostri interventi. Vedo già pronti molti ascoltatori, però vi farei sentire anche quello che ha precisato appunto relativamente a questo dietrofront sulla retroattività proprio ieri in un'audizione in Parlamento il ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Sarà corretto da iniziativa del Parlamento, non saranno retroattivi. La retroattività è un errore del quale assolutamente dobbiamo farci carico. Il provvedimento è molto complesso, è stato sviluppato con grande velocità perché la base di ragionamento l'abbiamo avuta giovedì dalla Commissione europea. La retroattività non ci può essere, però sul futuro devo ribadire un criterio che credo sia un criterio di civiltà di questo Paese. I crediti d'imposta non sono e non possono essere un bancomat. Troppe volte sono stati organizzati come bancomat, creando effetti di illusione, di slealtà fiscale da parte dei governi e degli stati nei confronti dei beneficiari. Dicevi Questo credito lo copre in bilancio per 82 milioni e poi legge sui giornali che l'impatto è stato di 1 miliardo e 800. Naturalmente va netizzato il 55, ma l'impatto è stato enormemente superiore alla copertura in bilancio. Questo è assolutamente incivile e con questo governo questo non potrà essere. Ci saranno dei meccanismi che allineano i crediti alle coperture. Buongiorno, Pieraldo Isolani, responsabile settore energia e ambiente di Adiconsum, che tra l'altro avevamo anche sentito nei giorni scorsi, avevamo sentito altre associazioni dei consumatori lunedì con un collega di Adoc, avevamo citato questa misura che aveva spaventato non poco e pian piano che contribuenti e consumatori ne hanno preso coscienza in questi ultimi due giorni, hanno cominciato ad intasare i numeri verdi, i telefoni delle associazioni dei consumatori. Ai vostri telefoni, Isolani, cosa è successo in questi giorni appunto? Appunto centinaia e centinaia di telefonate, di mail eccetera per chiedere chiarimenti, ma soprattutto per protestare, perché veramente questa è una scelta politica sbagliata. Lasciamo perdere il problema della retroattività, che finalmente si è anche i Tremonti si è accorto che è incostituzionale e che sarebbe, che non era proponibile, ma il problema, la scelta sbagliata è strategica. Ho sentito prima la registrazione dell'onorevole Tremonti che diceva che gli investimenti delle famiglie, 1.800 milioni nel 2008, hanno superato gli stanziamenti in bilancio. Meno male! Cioè, meno male che le famiglie hanno speso molti soldi per fare risparmio energetico, per migliorare l'efficienza. In questi due anni ci sono stati risparmiati 500.000 megawattore di energia che non è stata consumata. Sì. Non abbiamo messo in atmosfera 70.000 tonnellate di CO2. Meno male che le famiglie in un momento di crisi come questo, per l'ambiente, per migliorare, per risparmiare, fanno investimenti e quindi aiutano l'economia in crisi a risollevarsi. Meno male che questi investimenti ne sono usufruiti soprattutto dalle imprese e dai lavoratori italiani, perché le componenti che vengono installate, i pannelli solari, le caldaie, gli impianti termici eccetera eccetera, sono prodotti da imprese italiane, fanno lavorare le imprese italiane, fanno in lavorare gli operai italiani, gli artigiani, tutti quanti. Abbiamo dato voce, sì, Isolani. Una filosofia contro invece. Io onestamente credo che il ministro lo sappia molto bene, Isolani. La questione è che adesso, come dire, non c'è trippa per gatti e in questo momento si è ritenuto necessario appunto fare questo tipo di intervento, sul quale magari su ulteriore sollecitazione di altri colleghi del governo si farà un'ulteriore marcia indietro per i prossimi anni, perché sulla questione del 2008 appunto c'è stata una sistemazione della questione e adesso ne spiegheremo anche i termini. La questione è che però, come diceva ieri il ministro, il credito d'imposta non può essere usato come bancomat, sicuramente. Forse in questo momento non può essere usato come bancomat. Comunque, magari valuteremo, l'abbiamo fatta appunto parlare proprio per farsi interprete di tutti coloro che in questi giorni avevano duramente contestato questa misura e il principio appunto che stava dietro alla misura. Detto questo, però, adesso non è che la questione della cancellazione della retroattività decisa ieri cancella tutto l'impianto della norma e della novità introdotta nel pacchetto anticrisi, perché delle novità ci saranno, riguarderanno evidentemente quei lavori che magari molte famiglie avevano in cantiere di fare a partire dal prossimo anno, e qualche marcia indietro ci sarà, per cui oltre alle inevitabili ricadute ambientali che Isolani citava, ci saranno anche delle ricadute nel tessuto imprenditoriale, nel mondo del lavoro e quant'altro. Però a noi stamattina interessa spiegare soprattutto che cosa cambia per quello che riguarda l'iter della presentazione delle domande, perché adesso si tratterà nel prossimo anno di prenotare il beneficio fiscale e non ottenerlo in via successiva alla presentazione della fine dei lavori, che in questo caso veniva fatto ad un organismo diverso dall'Agenzia delle Entrate, che è l'Enea. Tutti aspetti che chiariremo con Luca De Stefani, il nostro esperto in materia fiscale. De Stefani, buongiorno di nuovo. Buongiorno. Allora, sai che cosa faccio per rivolgere una domanda a lei? Prendo una mail che mi è arrivata questa mattina da un ascoltatore, Vincenzo, che molto sinteticamente si chiede una cosa fondamentale, tanto per cominciare. Il decreto anticrisi è stato varato venerdì scorso, noi però abbiamo un mese che balla, quindi teoricamente il decreto è già entrato in vigore, ma ci sono molte famiglie che magari stanno finendo i lavori di riqualificazione della propria casa, stanno ultimando gli ultimi pagamenti, per cui il tema è capire intanto con il mese di dicembre come ci dobbiamo comportare. Che cosa intende esattamente la norma per quello che riguarda la scadenza? Ma allora, diciamo che il decreto è entrato in vigore appunto il 29 di novembre, ma crea degli effetti per tutto il 2008, quindi per tutti gli investimenti fatti nel 2008 si dovrà fare questa comunicazione il 15 di gennaio del 2009. Se però verrà modificato il decreto con l'emendamento enunciato, ecco che questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate a consuntivo non dovrà essere fatta. Dovrà essere fatta solamente quella all'Enea, ma comunque con le regole ordinarie, con le regole che abbiamo utilizzato per il 2007, e quindi tutti i pagamenti tramite bonifico bancario effettuati nel 2008, sia quelli di dicembre, sia quelli di novembre che di mesi precedenti, potranno essere agevolati e quindi sarà possibile detrarre il 55% dall'IRPEF della persona fisica il prossimo anno. Ricordiamo che comunque l'agevolazione spetterà anche per le imprese, anche le imprese possono usufruire dell'agevolazione, quindi con una detrazione dell'IRES sempre del 55%. Ecco De Stefani, magari facciamo anche un'ulteriore precisazione, perché ovviamente nel mare magnum delle notizie arrivate in questi giorni magari a qualcuno anche questo aspetto è sfuggito, nessuno ha toccato la norma relativa alla detrazione del 36% sui lavori di manutenzione straordinaria. Certo, certamente. Ecco, quella è una norma a parte, completamente diversa. Lì vi è una comunicazione preventiva da fare prima dell'inizio dei lavori al centro operativo di Pescara. E diciamo che la confusione può venire perché c'è una norma che parla del 36% all'interno di questo decreto del 29 di novembre, ma non c'è nessun collegamento con il 36% delle ristrutturazioni. In pratica, spieghiamolo, se non verrà modificata la retroattività, le regole attuali in vigore oggi sono quelle di questa domanda consuntiva all'Agenzia delle Entrate e che dovrà sperare chi fondi non siano terminati, si dovrà fare comunque la comunicazione consuntiva all'Enea da un tecnico abilitato, ma se la domanda viene rifiutata, quella dell'Agenzia delle Entrate, oppure se non si fa la domanda, la norma in vigore oggi prevede cosa? Prevede che non ho il 55%, ma posso comunque usufruire del 36%. Scollegandolo però dalla normativa delle ristrutturazioni edilizie, quindi non sono obbligato a comunicare a Pescara preventivamente la domanda, le regole sono completamente diverse, mi dicono non hai il 55% ma il 36%. Intanto tra l'altro stavo guardando De Stefani, questo lo volevo dire anche a Pieraldo Isolani, alcuni messaggi che stanno arrivando relativamente un po' alle ricadute di tutto l'impianto del pacchetto. Un ascoltatore ci scrive: io neolaureato in architettura con tesi sul risparmio energetico avrei avuto come altri maggiori opportunità di lavoro e forse è così. Buongiorno a Saverio Fossati, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno, che mi tutti. Deve sempre un po' soffrire quando lo invitiamo a Salva Danaio. Detto questo, abbiamo spiegato un po' i termini e dell'impianto iniziale della norma, la cancellazione della retroattività decisa ieri dal Ministro dell'Economia. Che idea ti si è fatto rispetto a tutta questa vicenda, Saverio? Abbiamo già parlato appunto con Pieraldo Isolani di Adiconsum delle ricadute. La retroattività per il 2008 era sicuramente importante, però insomma ci sono anche molte aspettative relativamente alla cancellazione di tutto l'impianto delle novità. Sì, ecco, però tenderei a ricordare un aspetto importante, e cioè le opere di risparmio energetico comunque anche prima della normativa che aveva stabilito la famosa detrazione del 55% erano detraibili ai fini del 36%. Quindi in questo momento bisogna valutare bene, e questo si potrà fare solo a bocce ferme, cioè quando il decreto legge sarà convertito in legge, quindi avremo un testo definitivo, bisogna capire bene se è possibile fare una cosa di questo genere, e cioè considerando che, stando ai dati attuali e come segnalava il Sole 24 Ore ieri, soltanto uno su nove dovrebbe farcela a rientrare nella detrazione del 55%. Con la nuova procedura del prossimo anno, con la procedura. Stiamo parlando di quelli, non di quelli che hanno fatto le spese nel 2008, i quali sono ancora, diciamo così, subiudice, no? Ai quali spetta comunque 36% e nella migliore delle ipotesi 55%. No, stiamo parlando di quelli che la faranno le spese l'anno prossimo. Ora, costoro dovrebbero partecipare a questa lotteria, a questa roulette della istanza dell'accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Però avrebbero due chance, a mio avviso, poi il dottor De Stefani può correggermi, perché appunto io non sono un tecnico, e cioè, da una parte presentare la comunicazione di inizio lavori all'Agenzia delle Entrate prima di far iniziare i lavori, ai fini di ottenere la detrazione del 36%, e dall'altra, al momento opportuno e nei termini che sono stati stabiliti dal decreto legge del 29 novembre, partecipare alla lotteria per ottenere il 55%. Dopodiché accadono queste cose. Le diciamo dopo, Saverio, perché ci dobbiamo fermare. Eccoci ritrovati in diretta a Salva Danaio. Abbiamo sentito prima i termini della questione della cancellazione della decisione da parte del Ministro dell'Economia di togliere la retroattività della norma che introduce modifiche al bonus fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico. Dopo la sollevazione popolare a 360 gradi che c'era stata negli ultimi giorni, oggi stiamo spiegando i termini della questione, perché poi in realtà la modifica alla legge rimane per il 2009 e per il 2010. Ci sono i tetti entro i quali non si può derogare. Per quello che riguarda invece il 2008, tutti i lavori eseguiti sono salvi, tutte le persone che ne hanno diritto riceveranno il beneficio fiscale, ma dal prossimo anno qualcosa cambia. Questo probabilmente indurrà anche molte famiglie magari a fare marcia indietro su molti lavori preventivati quest'anno, così come la stessa questione magari interesserà molte imprese. Detto questo, stiamo cercando di capire che cosa cambia. Nessuna novità attiene invece al bonus del 36% sui lavori di manutenzione straordinaria. Con noi Saverio Fossati del Sole 24 Ore, Luca De Stefani, esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore. Prima di precisare una questione con la quale eravamo rimasti in sospeso con Saverio Fossati, direi di cominciare anche a sentire i nostri amici all'800240024. Comincerei, Fabio, con Luca da Belluno, quindi linea 6. Luca, sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascoltate, io sto ristrutturando una casa. Nel 2008 ho fatto degli investimenti per coibentazione e rifacimento del tetto, circa 85.000 euro. Ora rimarrebbero fuori gli infissi che dovrei farli nel 2009, per cui avrei parte di lavori a cavallo 2008 e parte 2009. E infatti. La mia domanda è, rientrano entrambi? E in secondo luogo, farli rientrare dipende dalla data di comunicazione di fine lavori oppure no? Oppure dalla data in cui magari lei ha pagato già tutta la prima parte, quella che ha eseguito nel 2008. Luca, gli 85.000 euro che mi ha citato sono già stati regolarmente bonificati all'azienda che le ha fatto i lavori, alle aziende che le hanno fatti i lavori? Tutti pagati con bonifici. Il mio unico dubbio è, adesso mi conviene chiudere e dare la fine lavori nel 2008, magari, anche se in realtà non le ho finiti, per non perdere quelle cose fatte. E prenotare anche abbastanza rapidamente gli infissi nuovi, forse, Luca. Da quello che io ho percepito, vedo anche dei segnali di Saverio Fossate, teoricamente dovrebbe essere così. Aspetti lì, De Stefani. La questione dei lavori a cavallo, perché qua è ovvio che ci sono molte persone anche in questa situazione. Certo. Eccolo, se viene eliminata la retroattività, come abbiamo detto, tutti i pagamenti effettuati con bonifico bancario nel 2008 saranno agevolati e avranno solo come condizione l'invio all'Enea. Quindi non dovranno rientrare nella domanda quella all'Agenzia delle Entrate. Per la fine dei lavori si può chiuderli quest'anno e inviare la comunicazione entro 90 giorni all'Enea, oppure chiuderli anche il prossimo anno o l'anno successivo e inviare di conseguenza successivamente la comunicazione all'Enea. Però se viene eliminata l'irretroattività non abbiamo nessun problema per i pagamenti fatti quest'anno, perché la competenza, cioè non si applica il criterio di competenza per le persone fisiche, ma anche il teo di cassa. Saverio, sul caso di Luca volevi precisare qualcos'altro? No, esattamente, è così. Questo, quindi affrettarsi. Allora, invece eravamo rimasti in sospeso con prima la spiegazione delle nuove procedure per ottenere il beneficio fiscale del 55%, dati i tetti fissati dal governo delle risorse disponibili 2009 e 2010. E allora, visto che si dovrà giocare sostanzialmente quella che abbiamo definito una sorta di lotteria, perché ci sarà la richiesta preventiva all'Agenzia delle Entrate di questo bonus fiscale, chi ne rimane fuori naturalmente gli rimane aperta però la possibilità di avere il 36% dei benefici fiscali. Detto questo, si possono accavallare, Saverio, le due richieste? Noi su questi punti eravamo rimasti in sospeso prima dell'interruzione. Ecco, io ho pensato appunto a questo escamotaggio, cioè si possono accavallare le richieste ma non le detrazioni, cioè la legge proibisce di beneficiare di entrambe le detrazioni, non proibisce di presentare nel caso del 36% la comunicazione di inizio lavori, diciamo, e nel caso del 55% la famosa istanza definita dal nuovo decreto legge, tanto più che si presentano in momenti completamente diversi. Quindi la mia ipotesi, e qui voglio vedere se il dottor De Stefani è d'accordo, ha interpretato anche lui in questa maniera la legge. Allora, sapendo che in marzo 2009 io devo fare dei lavori, presento la mia brava comunicazione di inizio lavori a fine del 36%, pochi giorni prima che inizino i lavori al centro operativo di Pescara. Quando poi faccio fare i miei lavori, faccio i miei bonifici, li pago tutti regolarmente e poi presento invece la mia istanza alla All'Enea appunto per l'istanza all'Agenzia delle Entrate ai fini di godere dei benefici del 55%. Dato che in ambedue i casi prima del 2010 io non inizio la detrazione, è chiaro che nel corso del 2009 la situazione per quanto riguarda l'aspettanza o meno della detrazione del 55% si chiarisce, perché l'Agenzia delle Entrate o risponde sì sei dentro oppure non risponde e quindi ti dice implicitamente che sei fuori. Di conseguenza, quando arriverà il momento nel marzo del 2010 se 7.30 e nell'ottobre se modello unico, io avrò già perfettamente chiara la situazione e quindi se l'Agenzia delle Entrate mi ha concesso il beneficio, benissimo, inizierò a detrarre il 55% e ignorerò completamente e dimenticherò quella comunicazione di inizio lavoro. In caso contrario avrò già attivato la procedura corretta per avere il 36%. Luca De Stefani, è corretta l'interpretazione di Fossati? Certo, certamente, è corretta, dovrò quindi preventivamente, prima di inizio lavori, fare questa comunicazione a Pescara e cercare di avere o una o l'altra agevolazione, non è corretta. Loredana da Treviso, benvenuta. Buongiorno e complimenti. Niente, io ho deciso appunto di cambiare gli infissi dell'appartamento, ho tutti i documenti, il preventivo, il parere del tecnico che pensavo di inviare in settimana, e però ho tre mesi la ditta non mi fa il lavoro prima di tre mesi e quindi chiaramente non posso fare i pagamenti in teoria, no? Ecco, io volevo insomma, sapere... Lei dice per colpa dell'azienda io rischio di rimanere fuori da questo beneficio fiscale. E i pagamenti, se ho capito bene, dovrebbero essere conclusi entro la fine dell'anno, o sbaglio? Sì. Ecco. Quindi io mi permetterei di suggerire di far fare un altro preventivo ad un'azienda magari più veloce, adesso però a parte non vogliamo naturalmente entrare nel merito di questo, Saverio. Sì, il problema sono i pagamenti, cioè è lo stesso problema che si era riproposto per esempio quando si continuava a passare con l'IVA dal 20 al 10% sui lavori di ristrutturazione e dal 36 al 43% di detrazione IRPEF sempre sui lavori di ristrutturazione. C'è stato un periodo qualche anno fa che continuavano a cambiare queste aliquote, no? Quindi era evidente che chi riusciva a concludere entro l'anno aveva il massimo dei vantaggi, chi lo faceva l'anno dopo invece perdeva qualche cosa. Il problema è la data del bonifico, tutto lì, tutto si gioca lì e su questo non ci sono dubbi. Quindi, e qui insomma Loredana non può provare ad insistere comunque di pagare alla fine di ottenere appunto il beneficio fiscale e farsi una chiacchierata con l'azienda. Lei Loredana magari può provare anche questo, no? No, si può fare, ma volevo dire scoraggi. Che si può fare un fatturone di acconto il cui importo è del tutto libero, può anche essere il 90%. 90% del totale, pagarlo entro il 31 dicembre e poi dopodiché pagare il saldo, che sarà piccolino e quindi però sarà soggetto a tutti questi problemi che dicevamo prima nel 2009, però intanto il fatturone del 2008 rientra nelle regole 2008, cioè sarà tutto anche ben detraibile. Contenta questa azienda insomma di chiudere questo, ecco, no, una, no. Una, sì, è ben contenta anche troppo, perciò stiamo attenti quando uno fa l'accontone per il fatturone, vuol dire che ci deve essere una fiducia, un rapporto di fiducia gigantesco fra il cliente e l'azienda, e anche l'azienda che sennò deve installare rischia, questi infissi, certamente. Luca De Stefani, magari chiedo a lei anche un supporto insomma in questo caso di questa ascoltatrice, potrebbe essere una strada praticabile questa? Certamente praticabile, per le persone fisiche appunto si utilizza il criterio di cassa, quindi tutti i pagamenti effettuati entro fine anno potranno essere agevolati anche se i lavori erano terminati l'anno successivo. Devo ricordare una cosa interessante per le imprese: se c'è un'impresa che vuole essere agevolata per questi interventi, non si applica il criterio di cassa ma quello di competenza. E quindi per le prestazioni di servizi, se io acquisto appunto una prestazione di servizi da parte dell'installatore, in quel caso devo attendere la fine dei lavori per avere la rilevanza che il servizio sia stato espletato in sostanza. Mentre per l'acquisto di beni, ecco che vale la data di consegna. Quindi tutte le consegne effettuate entro fine anno, anche se non vi è l'utilizzo immediato e la messa in ammortamento del bene, dovrebbero essere queste tranquillamente agevolate. Sul tema era intervenuta una circolare a Sonime per la Tremonti Bis, per l'agevolazione della Tremonti Bis, nel 2002 aveva detto non c'è nessun problema, tu acquista i beni, porti nel cantiere, non serve che li utilizzi, inizi quindi il pannello solare, le finestre, gli infissi, la caldaia, non serve che me li installi e quindi inizi ad ammortizzarle, ma hai il beneficio Tremonti Bis. In questo caso dovrebbe valere la stessa cosa. E infatti 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi sul tema di questa mattina. Allora ribadisco, siamo andati su un tema che ci avete immediatamente sollecitato da lunedì e sul quale sono intervenute delle modifiche ieri, e cioè Tremonti, come abbiamo più volte detto anche nel corso delle nostre trasmissioni, ha annunciato che verrà tolta la retroattività dalla norma che va ad introdurre nell'ambito del pacchetto anticrisi le modifiche al bonus fiscale del 55% sugli interventi di risparmio energetico, per cui per il 2008 rimane tutto come era già predisposto, ci sono invece molte novità che riguardano il 2009 e il 2010. Detto questo, però, noi ci stiamo focalizzando su coloro che temevano appunto di aver perso la possibilità di ottenere questo beneficio e che hanno già eseguito lavori nel 2008, e poi ci sono tutte anche le situazioni a cavallo, ovviamente, che sta finendo, che sta ultimando i lavori in questo mese e chi invece magari li ultimerà tra adesso e l'inizio dell'anno. Cosa deve fare, come deve comportarsi per non perdere questo beneficio? Sentiamo Gaetano da Padova. Buongiorno Gaetano, anzi forse c'era anche Massimo di Napoli prima, gli chiedo un attimo di pazienza, lo sento, ecco, lo sento rapidamente. Gaetano, ci dica. Un quesito molto veloce. Sì. Ho seguito i lavori e ho ultimato i lavori entro il 10 di settembre. Mi dicono che ci vogliono i 90 giorni, quindi io oggi e domani avrei dovuto fare la comunicazione all'Enea. Sì. Adesso come devo comportarmi? Fare la comunicazione all'Enea e così, basta così. Gaetano, lei ha pagato tutto? Ho pagato tutto. E questo mi pare la che sia già una... È il 10 di settembre, quindi il 10 dicembre è il limite massimo per la comunicazione. Guardi, questa nuova norma è un ginepraio, questo però è forse uno degli unici punti che ho capito. Se abbiamo pagato tutto, l'importante è che lei si metta al riparo con la data della comunicazione fatta all'Enea. Luca De Stefani. Sì, diciamo la comunicazione all'Enea sicuramente deve essere fatta. Se la norma rimane così, c'è la scadenza il 15 di gennaio, bisogna inviare l'Agenzia delle Entrate questa istanza. Se invece la retroattività viene eliminata, ecco che basta appunto questa comunicazione. Diamola per scontata l'eliminazione della retroattività, De Stefani. Quindi certamente. Il nostro ascoltatore che ha già pagato tutti quanti i lavori, credo che sia a posto. Si sbrighi a fare la comunicazione all'Enea e insomma da qui al 31 dicembre avrà tempo per farla. No, certo. Tanto deve farla rapidamente. Sì, Saverio, non abbiamo null'altro da aggiungere su questo. Massimo da Napoli. Buongiorno, grazie. Buongiorno, tanto per il servizio che ci offrite. Grazie. Io volevo porre il mio caso, che è quello di una ristrutturazione già fatta in parte per l'immobile in cui abito, per la quale ho sfruttato il 36% e ho raggiunto il tetto. A questo punto, siccome mi appresto a mettere degli infissi in una zona della casa che sto completando ora, se non accettassero praticamente la mia domanda per gli sgravi del 55 e il 36, per il 36 ho raggiunto il tetto, dove si va a finire? Dico un'ultima cosa, ci vorrebbe molta più chiarezza da parte del governo su questa cosa, mi permetto di dirlo, perché tra l'altro il venditore se sa che l'acquirente ha uno sconto del 55% in questa formula, tenderebbe a non fare sconto perché sa che l'acquirente ha questa agevolazione. Se l'agevolazione non c'è, il venditore, pur di vendere, fa uno sconto. Lo so. Può, per Massimo, aiutare, sai, lo spettro delle ricadute l'abbiamo toccato ampiamente, ha ragione anche lei. Andiamo però alla situazione pratica. Allora, tra l'altro, la questione del rifacimento degli infissi è piuttosto importante, perché se c'è la possibilità di ottenere il 55%, bene, ma Saverio, il lavoro del rifacimento degli infissi è un lavoro anche di manutenzione straordinaria, qualora non potesse avere il beneficio del 55% può ottenere il 36%? Se il lavoro di rifacimento infissi puro e semplice, solamente a certe condizioni, perché non è così automatico punto, invece col 36. Il problema è: rifaccio gli infissi ai fini del rifarmio energetico, cioè metto finestre a doppi vetri, questo rientra sicuramente nel 55 tanto quanto nel 36, ma rimettere una finestra nuova e basta non è così automatico che sia nell'ambito della manutenzione straordinaria. Perché lui ha già praticamente superato il tetto massimo della spesa per ottenere il 36%, sono i 48.000 euro, se non ricordo male, per unità abitativa. Detto questo, gli ballano gli infissi, e se perde anche la possibilità di ottenere il beneficio del 55%, l'unico modo con cui si può mettere a riparo è, non lo so, anche in questo caso, fare rapidamente un preventivo, pagarlo anticipatamente, come suggerivamo prima la nostra ascoltatrice di Treviso. Sì, però dipende dal tipo di infissi, quindi è una cosa che va chiarita e che deve chiarire lui. Infatti, magari rivolgendosi a qualche tecnico un po' più specializzato. Michele da Provisa, dalla provincia di Pisa, ho messo insieme tutto. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io mi ricollego sicuramente alla domanda della persona di prima, però più che altro perché la ristrutturazione è abbastanza importante, per cui io ho già del 36%, ho già fatto la richiesta alla centro operativo di Pescara. Sì. Esatto, quindi ho dei lavori in muratura da fare, quindi i 48.000 euro del 36% li consumo tutti. Mm-hmm. Poi però devo fare un cappotto esterno, una coibentazione di sottotetto e così via, quindi sicuramente farei la richiesta del 55%. Se non mi venisse accettata, il 36% derivato dalla mancata accettazione del 55% ha un tetto a parte oppure ricade sotto in quella quota che lei ha già consumato, Michele? Temo proprio... Saverio, qua. Sa com'è? Questo è un campo davvero, come per molti. No, sento sotto Luca De Stefani. Ma diciamo, sono due limiti separati, in quanto appunto questa scappatoia, ricordiamo, questa scappatoia probabilmente verrà eliminata se appunto verrà eliminata la retroattività. E quindi se il nostro ascoltatore sta parlando della normativa ad oggi, se a gennaio del prossimo anno non mi accettano la domanda all'Agenzia delle Entrate, ecco che ho questa scappatoia, cioè avere il 36% sull'investimento fatto che avevo fatto per i 55, nel limite di 48.000 euro. Questi 48.000 euro non sono, sono cumulabili con gli altri 48.000 euro relativi al 36%, in quanto non viene richiamata nella norma la legge del 36% vera e propria. Certo, De Stefani, che lei fa un lavoro, ragazzi, io veramente mi sono persa già dopo tre righe di tutto questo, e abbiamo fatto centinaia di trasmissioni anche con Saverio, però insomma se sono ignorante, questo è un problema mio. Elsa dalla provincia della Spezia, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Allora, io appartengo alla categoria ponte, mi definirei. Sì, infatti. Ho dato un inizio lavori un paio di mesi fa per una ristrutturazione molto pesante. Abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi anche per appartenenza culturale all'attenzione sul risparmio energetico, eccetera. Adesso di fatto mi ritrovo con una situazione nella quale non so se potrò usufruire del 55% di detrazione fiscale, non so se potrò usufruire del 36%, in quanto io l'inizio lavori l'ho già dato. Quindi volevo capire come posso regolarmi rispetto a questa dinamica. È iniziato i lavori un paio di mesi fa, ci diceva Elsa, adesso al di là della descrizione e della tipologia di lavoro che sta sostenendo, quando prevederebbe di terminare insomma un lavoro? Guardi, anche io sicuramente entro il 2009, non entro il 15 di gennaio, non entro, entro l'estate del 2009. Purtroppo, per quello che riguarda la categoria ponte, come lei l'ha battezzata, Elsa, insomma, abbiamo già capito come funzionerà, Saverio. Ma mi chiedevo se nella comunicazione d'inizio lavori al centro operativo di Pescara fossero stati indicati anche i lavori relativi al risparmio energetico, oppure fosse una comunicazione così abbastanza generica. In che termini? Elsa, è ancora con noi? Sì, sono ancora con voi, perché io non ho dato comunicazione dell'inizio lavori. Ah, però non l'ha data? Ah, abbiamo capito che l'avesse data. Se posso farlo adesso. Se non ha fatto ancora bonifici, possiamo far finta che i lavori siano iniziati adesso. I bonifici sono già stati fatti. Allora non c'è niente da fare. Allora si potrebbe tentare quella soluzione che proponevo prima, cioè facciamo la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara per relativamente al 2009. Tanto, per i lavori non, di risparmio. Non è un atto illecito, voglio no, dire. Per i lavori di risparmio energetico. Poi partecipiamo alla lotteria di Capodanno dell'Agenzia delle Entrate per avere il 55%, stiamo sempre parlando di spese sostenute nel 2009, e nel primo, se la lotteria va male, avremo però almeno diritto ad avere il 36% sulle spese sostenute nel 2009. Luca De Stefani rapidamente condivide questa strada che Fossati suggerisce di percorrere, ascoltatrice, sì. Trovi l'agevolazione per i pagamenti che farò il prossimo anno. Signori miei, anche per oggi Salvadanaio termina qua. Io mi rendo conto che è un po' una questione ancora che in realtà anche con la cancellazione della retroattività di ieri è tutt'altro che risolta, e soprattutto, come giustamente diceva Elsa, c'è tutta la categoria delle persone appartenenti adesso all'ambito ponte che sta iniziando i lavori, chi prevedeva di avere determinate agevolazioni anche finendoli l'anno prossimo. Insomma, noi ci torneremo di nuovo su questo tema alla luce anche di tutte le vostre perplessità. Grazie a Gaia Romani, a Valeria Coffa Faro per la collaborazione in redazione, grazie a Fabio Cantadori per l'assistenza tecnica, naturalmente a Saverio Fossati e Luca De Stefani, i nostri ospiti di questa mattina. Noi ritorniamo domani. Da Deborah Rosciani, una buona giornata a tutti.